Vecchi rotti in culo, esplide del culo, esplide del... Que la bourgeoisie n'a jamais hésité même à tuer ses fils. Thank you. c'è un certo profilo di interesse sul professore. Ora la stanno cominciando. Questa è il professore che si amarmi. Solamente una volta che si è stato di ritornato, faccio la storia di essere un professore. La nostra è categorica. Noi dobbiamo subordinare il nostro godimento a un tempo. È inzuppato di sangue. E ancora, amici miei, se la memoria non mi tradisce, sì, è così. Senza spargimento di sangue non si dà perdono. Senza spargimento di sangue. Baudelaire. Piacente eccellenza, ma devo farle notare che il testo che l'hai recitato non è Baudelaire, bensì Nietzsche, ed è tratto precisamente da Fuga nella Via de Smorano. No, non si tratta di Baudelaire né di Nietzsche, né eventualmente di San Paolo, lettera ai Romani, se di Dada. Canta quel motivetto che mi piace tanto, che fa da. Deliziosa creatura, vuoi le mie mutande sporche, le mie vecchie mutande, sai che ciò è di una raffinatezza impareggiabile, vedi come sono riuscibili al valore delle cose. Ascolta, angelo mio, io ho il più grande desiderio del mondo di confrontarti in questo, perché sai che rispetto tu dei capricci, per barocchi che si siano, perché non ne siamo arbitri, sia perché anche il più singolare e il più bizzarro, appena analizzarlo, risale sempre.